l'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. I'm a real wild one. Wild one. Amico mio, ma sei vuoto! Sei vuoto! Tu a me mi puoi solo baciare le chiappe, hai capito? Io ho conosciuto l'odio quando ho sentito la voce di Parenzo. Ma chi ti si piglia, Crociani? Allora, immaginate popolo della radio, immaginate che cosa? Una scena molto frequente in questo periodo. Cioè un cittadino qualsiasi della provincia milanese che sente molto caldo, oltre 40 gradi, eccetera, eccetera. E cosa decide di fare? Decide di prendere la sua macchina oppure andare a piedi ed andare in una piscina. Una piscina di Olgiate Olona nel milanese. Ovviamente quando vai in piscina, Parenzo, cosa fai? Il bagno in piscina, normale, certo, no? Il costume. Uno va in piscina per fare cosa? Far bagno, mangiarsi un gelatino, fare un tuffo. A un certo punto arriva il Milan, la squadra di calcio del non Milan. Non gli immigrati, I proprietari, i proprietari di questo club, il Zero Village di Olgiate Olona, per quello che riferiscono le cronache, e noi crediamo alle cronache, cosa fanno? Vanno dai signori che hanno pagato, credo, 10-12 euro per entrare in piscina, e dicono che cosa? No, scusate, per motivi di sicurezza non potete entrare in acqua perché stanno arrivando i giocatori del Milan. Sti cazzi dovevano dire questi. Amici miei, dovete solamente vergognare per questa cosa. Vi dovete vergognare come ladri. E se io credo che la squadra del Milan non fosse consapevole di questa cosa, credo di no. Non so. È una cosa che oggi mi ha fatto particolarmente incazzare questa cosa, non so perché. Ma se avessero detto ad esempio, guardate, scusate, sono un gruppo di migranti che vorrebbero fare un bagno. Ma che c'entra? Sarebbe successa una rivolta, sarebbe accaduta, no? Cioè, allora mettiamolo, oppure un gruppo di donne. Ma guarda che si sono incazzati anche per questo, però, quelli che hanno pagato il biglietto gruppo, in piscina. Sì, ma poco, non sono dei protesti, non abbiamo visto Forze Nuove, non abbiamo visto Case Paundiane, non abbiamo visto Striscioni, Manganelli, Assedi, migranti, no, il Milan deve fare il bagnetto. Bisogna dire una cosa, che sembra che un giocatore del Milan, Nocerino, a un certo punto si è fatto avanti perché ha capito che la situazione non era più tollerabile, è andato dai gestori e ha detto, ragazzi, però... lasciate libero l'ingresso. Speriamo abbiano rimborsato il biglietto almeno ai paganti. Che vergogna, che vergogna. Che vergoglio, che vergoglio. Oh, a proposito di bergoglio, seduto al club, uno dei club più esclusivi al mare della Sardegna, Cala di Volpe, il signor Grillo, uno dei club più cari della Costa Smeralda, ha detto siamo francescani, sì, al Financial Times. Siamo francescani, cioè il Movimento 5 Stelle è francescano. Papa Francesco ha copiato il Movimento 5 Stelle, cioè Papa Francesco si è rifatto a Grillo, Grillo. Merkel e Juncker sono dei malati, non sanno riconoscere la sofferenza degli altri. Capito? Sì, poi ha detto anche che i ristoranti ad Atene sono pieni. Sono pieni, sì. Questa sono è pieni. L'altra mega galattica stronzata a 5 pieni, stelle. Certo, sono pieni. Ma è tutto pieno, non c'è crisi. Ma come in Grecia? Non esiste, l'avete inventata voi. Cioè, non esiste la crisi in Grecia. L'ha detto Squins, non esiste, l'avete inventata voi del sole. Non è possibile che Napoletano, non esiste. Questa gente. Voi l'avete detto, Roberto Napoletano. Ma che c'entra Napoletano il sole? Voi siete in 24 ore, questa crica, cioè, del Bilderberg. In Grecia i ristoranti sono tutto pieni, allora? Tutto pieno, la gente mangia il soufflé. Il souffle è buonissimo. Ma lo diceva anche Berlusconi che non tiene in ristorante. È una crisi inventata, non esiste. Siete voi dei malati. Ma lei è andato in Grecia? Sono stato ad Atene 2 giorni, all'Hilton, 5 stelle, meraviglioso. Vabbè, ho capito, però. Stupe, 5 stelle, 400 euro a notte. Beh, anche poco. Era tutto bellissimo, c'era una piscina pazzesca. Non c'è crisi. La gente per strada lanciavano delle molotov di gioia. Ma perché c'è questo casino? Ma quale casino? Una cosa inventata. È tutto online, tutto creato dalla stampa. Dalla Juncker, da questa gente, come si chiama quella? Schulz, Schlube, come si chiama? Schloibe, quel signor Schloibe, Schlube, come si chiama quel maledetti? Maledetti! Siamo qui 800 24 00 24. E intanto, beh, caro Parenzo, a Treviso c'è stata una grande vittoria, Vittoria di voi e del Sibi, certo. No, c'è stata una grande vittoria. I cittadini hanno ottenuto quello che volevano. Il popolo, la gente, ha ottenuto quello che voleva. Cioè dire lo sgombero degli immigrati. Un bel metodo. Lo sgombero degli immigrati. Però devo dire una cosa. Ha ragione il filosofo, professore Massimo Cacciari, che dice una cosa. Se lo Stato, il ministro degli interni, il prefetto decidono di fare una cosa, allora poi non se la possono fare sotto. Bisogna la devono applicare. Perché Cacciari dice anche che nel 2008, quando lui costruì il villaggio Rom a Mestre, no? Lui in quella intervista lei evocava prima, dice: io ho tenuto il punto, mi hanno rotto i coglioni, dice il professor Cacciari in quella intervista. Va tenuto il punto alle istituzioni, dice, devono tenere il punto quando decidono una cosa. Anche contro il volere dei cittadini che non vogliono dentro le loro case. È quello che ha fatto Cacciari quando fece il sindaco, che costruì un meraviglioso villaggio Rom in provincia di Venezia. Comunque, dopo il trionfo di Treviso da parte dei cittadini, io sono abbastanza contento. Succede che a Roma, vicino Roma, a Casale San Nicola, insieme a Casa Pound, un gruppo di cittadini ha ingaggiato battaglia con la polizia perché non vogliono l'arrivo di 100 immigrati. No, circa 19. 19 sì, ma il progetto è per 100 immigrati. Il progetto 100! No! Oh, 100 migranti in arrivo! 100! C'è l'invasione! Invasione! Feriti 14 agenti! Feriti 14 agenti, non dagli immigrati! Feriti 14 agenti! Reati: razzismo, interruzione del pubblico servizio, aggressione, istigazione all'odio, violazione della legge Mancino. 5 reati scritti qua. C'hai le vene di fuori. Neri su bianco, nero su bianco. A loro nero dovrebbe anche piacere. Aspetta, nero su le voci della gente. Ma vaffanculo tu e quei 4 straccioni che hanno potresti andare. Ma nessuna voce della gente, andate a fare in culo proprio. Le voci della gente. Quello che stanno combinando, cioè malaffare dappertutto, spaccio di droga, prostituzione, entrano nella casa, ammazzano, questo male. Omicidi, accoltellamenti. Perché dobbiamo accettare una cosa del genere quando sappiamo che in altri posti sta succedendo questo? Altre voci da Casale San Nicola. Benzina sul fuoco, vai, via con la benzina. Se abito qui da 33 anni, mi sono fatta insieme ai miei genitori questa casa con tanti sacrifici. E siamo ridotti come siamo ridotti. Che Italia è questa? Mio nonno ha fatto la guerra, aveva 17 anni per creare un'Italia. E questa è l'Italia che daremo ai nostri nipoti. Questa è l'Italia che nessuno ci tutela. Una ragazzina di 17 anni e passerò lì davanti tutti i giorni, 10 volte al giorno, io non ho paura, va bene? Non ho paura! Eccola là, mia, non dorme più la notte, porco Giuda! Allora, fino a pochi istanti fa era sul posto ed è stato uno dei protagonisti della vicenda, caro Parenzo. Cominciamo col definirla gazzarra, per così vicenda. Fa l'assettico lui, fa il giornalista terzo. Fermo lì. Bisogna tenere conto del fatto che ci sono delle persone gazzarra che non vogliono l'arrivo dei profughi. Gazzarra. Se tu non ne vuoi tenere conto, non tenerne conto. Gazzarra. Simone Di Stefano, vicepresidente di Casa Pound. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, io voglio capire una cosa: perché avevate i caschi innanzitutto, voi militanti di Casa Pound che eravate là di fronte? Perché il manganello, se dato con forza sul cuoio capelluto, lo apre e procura grosse ferite, si sanguina parecchio, per cui no, ma ve lo siete portati... uno si mette il casco, ecco. Ma quelli sono poliziotti di Stefano, servitori dello Stato, 14 feriti, agenti, 5 reati, razzismo, istigazione all'odio, interruzione di pubblico servizio, aggressione, violazione della legge Mancino. Fallo parlare. Sì, queste sono ipotesi di reato. Sì, di quello che è accaduto. Allora, certo. Io non ho capito, una cosa. Di Stefano, avete picchiato qualche poliziotto? No, non abbiamo picchiato nessun poliziotto, i feriti sono stati tutti quanti, sono caduti perché c'era un avvallamento purtroppo e cadevano, ogni volta che arrivano su quell'avvallamento cadevano. E anche per caso cadevano, scivolavano, sì, no, per caso. È questo, io guarderei più agli anziani feriti, al signore che ha avuto un principio di infarto perché è trascinato via con la forza e la violenza dalle forze dell'ordine, perché dalle forze dell'ordine eseguono gli ordini del prefetto, ovvero del governo, però stamattina... è stata veramente una scena orribile, ovvero lo Stato che portava con la forza e la violenza questi immigrati clandestini per portarli dentro a questo centro d'accoglienza dove non hanno assolutamente nessun titolo di stare. Perché no, però scusami Simone, scusami Simone, perché mi dici con la forza e con la violenza? Quelli eseguivano degli ordini del prefetto, ordini del prefetto, il quale aveva previsto di portare quelle persone, all'inizio 19, in tutto saranno 100, dentro un'ex scuola, riadattata, è un caso diverso da quello di Treviso, dove sono andati in un palazzo accanto ad un altro palazzo, in uno stesso, quasi nello stesso condominio. Anzitutto quel centro di accoglienza non ha le carte in regola, pensa che chi è che gli ha messo... Questo lo dice Di Stefano, lo Stato lo decide. Chi l'ha messo a posto le carte ieri, quello che si è dimesso l'altro ieri, quello è quello che ha firmato le carte che erano tutte così molto ballerine, va bene, il comune ha preteso che lì si facesse il centro d'accoglienza e lì sono arrivati chi? I profughi, no, col cazzo, scusate il termine, sono arrivati i singalesi, sono arrivati i senegalesi, tutta gente che non ha titolo, non può. Ma quello non è che non lo decidi tu, non lo decide lei, non lo decide Casa Pound. Non lo decidono le forze nuove. L'Eritrea e la Siria hanno titolo per essere profughi. Quelli non sono profughi, sono immigrati clandestini che vengono qua a cercare una ricchezza, un benessere che non c'è. Non c'è per loro, non c'è per noi. Scusami, Simone, fosse per te. Di famiglie indigenti. Vabbè, d'accordo, d'accordo. Questo l'ho capito. Dunque, per te se ne devono andare via. Devono essere cacciati. A casa loro, subito, immediatamente. Non sei siriano, non sei eritreo. Sali sull'aereo e se ne vai a casa tua. Ho capito, però capisci che questa procedura qua è una procedura che l'Italia fa con grande ritardo, ma che spetta allo Stato. Cioè, voi che cosa volevate fare là davanti? Prenderli voi e portarli via? Fosse stato per te, noi vorremmo che lo Stato, invece di andare a trascinare via donne, madri di famiglia e anziani, facesse una grande barca dove li mette sopra chi non ha titolo per stare qui e li rimanda immediatamente a casa sua. Questo deve fare lo Stato. Ma non lo decidete voi. Con gli immigrati clandestini. C'è una cosa che si chiama Stato, che è una roba per fortuna Stato democratico. Voi avete compiuto 5 reati: interruzione di pubblico servizio, aggressione, razzismo, istigazione all'odio, violazione della legge Mancino. Questi sono i reati compiuti nel corso di quella gazzarra indegna. Ma non c'è da è stata una rivolta sociale indegna. Ma stai tranquillo. Ma non c'è da dare. Hanno fomentato della gente che era lì. Fuori. Quello è il popolo che non vi sopporta. Il popolo? Ma quale popolo? Ma stai tranquillo. Fermi. È una cosa vergognosa. Fermo lì, Simone Di Stefano, vicepresidente di Casa Pound. Abbiamo il traffico, torniamo subito. Il traffico è proprio. La Zanzara. Attento al DDT, sai? Allora, la rivolta, chiamiamola rivolta, anche se in realtà sono poche persone, non immaginate che su tutta Roma sia coinvolta in questa cosa. La periferia di Roma, Casale San Nicola, un gruppo di persone, di residenti lì, non vogliono la rivolta. Fomentati da Casa Pound. Con la presenza di Casa Pound. Fomentati e accesi. Ma qui abbiamo Simone Di Stefano, in rappresentanza di Casa Pound, non accettano l'arrivo di un gruppo di immigrati in un'ex scuola riadattata. 19 persone, non immigrati, persone, 19 persone, cominciamo a dire sono le parole. Immigrati, dai, su. Diciamo le parole. Sono 19 persone in carne e ossa, con del sangue, un naso, la bocca, respirano, ma mangiano. Devi stare tranquillo. Gente che pensa. Devi stare tranquillo. Gente viva. Un poliziotto, mi sembra che abbia detto, avete tirato dei mattoni, andate via o arresto. Insomma, anche voi avete fatto casino, però, Simone, adesso non ve la potete cavare dicendo è colpa dei poliziotti che hanno fatto cadere gli anziani, eccetera. Qualche mattone l'avrete tirato, qualche cosa l'avete tirata, o no? C'è stato un po' di parapiglia, questo è ovvio, poi parleranno le immagini, ci saranno tutto quello che volete, però è chiaro che qui bisogna anche un attimo dimostrare che ci sono degli italiani che non si arrendono. Ah, voi dovete, siete andati lì, sì, per dimostrare che ci sono italiani che non si arrendono? La prepotenza dello Stato, ci sono italiani che non si arrendono, capito? Non ci facciamo prendere per il culo. Quindi non farete altre gazzarre. Profughi. Non ci dite che portate i profughi, non sono profughi, sono senegalesi, sono congolesi, c'erano srilanchesi, non c'era un cavolo di profugo. Su sono persone. Lì, stavano lì con i telefonini e i cappelli firmati a prendersi per il culo e a mandarci a fare in culo a fare il dito. Allora noi, cioè, facevano il dito medio e vi mandavano a fare in culo, non ho capito. Certo, siamo stanchi, siamo stupidi di farci prendere per il culo dallo Ma Stato. Ma tu non vuoi nessuno, capito? In Italia, diciamo la verità, Simone, tu no, in Italia non voglio nessuno. Non voglio nessuno in Italia. In una nazione dove ci sono 4 milioni di famiglie indigenti, non voglio. Cioè, tu vorresti tutti i neri fuori dall'Italia, tutti i neri fuori dall'Italia. Tutti gli stranieri, bianchi, gialli, neri, arancioni, fucsia, non me tutti gli stranieri niente. Fuori. Gli stranieri fuori. Ma non rimane nessuno. Ma come se campa poi? C'è rimane un, lui e buon anno. C'è un sacco di gente che fa lavori umili, vai, Simone. Vai. C'è un sacco di gente io che fa. Sto parlando, ti sto parlando dell'ultimo ondata di immigrazione. È chiaro che si sta qui da 10 anni, lavora, deve rimanere qui. Però non possiamo. Ma se c'era, se c'era lui, come lo risolveva il problema? Se c'era lui. Era lui chi? Lui. Dillo te, lui chi? Dillo se te. se c'era lui. Lui con allora, la L, se c'era il Duce, come lo risolveva? Se c'era un'amministrazione saggia, le navi non prendevano la gente in mezzo al mare e le portavano. No, ma se c'era lui, come lo risolveva il problema se c'era lui? Allora, la soluzione si risolve se c'era lui o se non c'era lui, si risolve come... No, ma dimmi se c'era lui, come lo risolveva? Allora, se c'era lui o se c'ero io, se c'era chiunque altro con un po' di sale in zucca, si va in Libia, un intervento militare unilaterale, si va sulle coste libiche... Vabbè, la guerra in Libia. Disegna un perimetro e lì si fanno i campi da aspetta contenta. Che sento male, che sento mano. La viva voce, sento il viva voce, aspetta Simone, viva voce, si dà una mano al governo laico di Tobruk. Comunque, a rimettere ordine in Libia, capito? Sotto il fascismo queste cose non accadevano, diciamo la verità, sotto il fascismo, no, sotto non il fascismo non accadevano e potrebbero non accadere neanche oggi se uno avesse un po' voglia. Ti di credo, amare mettevano nei campi. Ma tu quando fate queste iniziative le coordinate con Salvini o no? Un po', cioè, l'avete, ti sei sentito oggi con Salvini su questa roba, è d'accordo con voi? No, non coordiniamo niente, però è chiaro che la posizione è la stessa, non vogliamo centri d'accoglienza, non vogliamo centri profughi, non vogliamo nessuno, basta, cioè Roma è piena, l'Italia è piena, non se ne può più. 8 anni di reclusione, a Roma, razzismo, 8 anni di reclusione. Ma perché? Ma che sei? 8 anni di reclusione, razzismo, istigazione all'odio, interruzione di pubblico servizio, aggressione, violazione della legge Mancino. 8 anni e ci siamo tolti questi dai coglioni! 8 anni, gazzarra indegna! Fermo. 19 persone hanno aggredito del pullman, 19 migranti, 19 uomini che respiravano. Di Stefano, ma che c'ha stasera? Ma che c'ha? Non c'è un cazzo da ridere qui. Avete organizzato. Ride. Hanno aggredito la polizia. 19 persone scortate. Ma scusa, ma come giustifica? No, aspetta, tu che sei uno. È la polizia che ha aggredito i cittadini di Casa Le San Nicola. Ma no, dai, purtroppo, la polizia ha aggredito. La polizia ha fatto il suo. Scusami, la polizia ha fatto il suo dovere. Scusami, però. Allora. La polizia fa il suo dovere, se gli dicono che. Lo Stato che sportava questo pullman, dovevi vedere, era un corteo, capito? Di tutte blu, vabbè, ho capito. Di questori, con questo pullman pieno di gente che non ha titolo, che sicuramente magari tra 20 giorni, un mese sarà. Sì, però ripeto, lo decidi tu se ha titolo o no. Vabbè, Simone, grazie, ciao. 8 anni di reclusione. Ciao. Prossimo collegamento dal carcere. 8 anni, Davide, ciao. Prossimo collegamento dal carcere lo facciamo. Di dare la linea al giornale radio per un'interruzione come al solito di minuti 24 di questa trasmissione La Zanzara. Sembra buona io polemica. Direi di andare a Pordenone da Maurizio. Maurizio, dici la tua su questa vicenda degli immigrati. Ciao. Dai, veloce, bravo, amico. Volevo dire qualcosa nel dibattimento già di ieri sera, no? Degli immigranti lì a Treviso. Il tuo collega lì, che non dico non lo definisco perché non vale la pena. Tu hai detto no, perché non te se vengono lì al quartiere Prati di Roma non ha neanche risposto. Vuole dire il perché? Cioè i cittadini non hanno diritto di incazzarsi se qualcuno viene sul tuo pianerotto e una persona, un immigrato, un profugo. Non posso rispondere a questa roba. Non può rispondere. È talmente stupida questa cosa, è talmente idiota questa cosa che non ha. Cioè ti ha detto senso. Che sei un idiota, Maurizio? Ma no, e poi ancora abbiamo detto poco, poi dopo il giornale radio, dopo i 25 minuti di giornale radio, torneremo con questo Maurizio e tutti gli altri che chiameranno. Mamma mia, che snob che sei. Mamma mia, snob, ragazzi, mamma mia. Un'aggressione manu militari fatta vorrei... nei confronti no, di 19 persone. E poi il problema sono io. O sono questi che organizzano la gazzarra. Mamma mia. Razzismo, fermo. Istigazione all'odio, interruzione sfumate, pubblico servizio, sfumate, aggressione, violazione della legge vaccino. 8 anni di carcere. Sfumate, Donato da Varese, pensaci tu, sfumate. La zanzara è il tendone dei fenomeni da baraccone. E ripeto, lo dico con amore. Dove ti piacerebbe andare quest'estate? In un posto poco conosciuto e possibilmente a buon mercato. E che cosa ti piacerebbe fare? Riempirmi gli occhi di cose belle. Con chi ti piacerebbe partire? Con la mia famiglia e i miei amici a quattro zampe. E tu? Con i miei amici, con mio marito, forse anche da sola. Sono Annerita D'Ambrosio. Sono Valeria De Rosa. Ogni settimana vi accompagneremo in giro per l'Europa. Vi aspettiamo a Globetrotter 24. Globetrotter 24, il sabato alle 16 e la domenica alle 17:30 su Radio 24. La Zanzara. Se lei avesse sparecchiato qualche piatto, forse sarebbe anche un po' più educato, perché un altro suo grosso problema è che è un gran maleducato. A Treviso è in corso lo sgombero a Quinto di Treviso dopo quello che è successo ieri, i cittadini che sono scesi giù dalle case, in alcuni casi hanno bruciato i mobili destinati ai profughi, eccetera, eccetera. No, non eccetera. Solo mobili, non solo mobili. No, no, e non solo i mobili, non solo i mobili. Vettovaglie, hanno bruciato televisori, scorte, televisori, eccetera. Sì, vabbè, televisori hanno bruciato. Sentiamo alcune voci. Non siamo razzisti, avevano gli iPad e ci sputavano. Treviso. Ci dispiace per il messaggio che è passato, perché siamo passati per razzisti, cosa che assolutamente noi non siamo. Vogliamo solo che vengano rispettati anche i nostri diritti. Dobbiamo anche capire che ieri avevano l'iPad, avevano lo smartphone, ridevano, ci riprendevano, sputavano dalle terrazze. È una presa in giro. È vero che da sotto, dalla strada, alcuni di questi cittadini di Treviso dicevano: non vi vogliamo scimmie, non vi vogliamo scimmie. No, ma non sono razzisti. Ancora. Siamo stati un esempio, secondo me, per tutti quanti. Non possiamo stare con le mani in mano mentre le istituzioni ci fanno questo tipo di violenza, perché questa è stata una violenza alla nostra libertà. Dichiariamolo pure. Abbiamo pronte altre voci da Roma, di gente incazzata. Ho visto donne, no? Donne romane, veraci, sedute per terra, che si opponevano. Io dico una cosa, però: se lo Stato ha deciso una cosa, allora bisogna sgomberare anche con la violenza. Io sono sempre a favore della polizia quando deve sgomberare, quando deve caricare quelli dei centri sociali che rompono i coglioni. Non posso essere incoerente su questo. Se c'è un'interruzione di servizio, se è stato, se il Ministero degli Interni, il prefetto di Roma, ha detto che là ci devono andare gli immigrati, vadano gli immigrati. Se non hanno la forza di far applicare le cose che decidono, e beh, questo allora è uno Stato di merda. E infatti siamo uno Stato di merda, perché non prendiamo decisioni definitive e ci facciamo influenzare da 20, 30, 40 persone che magari legittimamente si incazzano, più o meno. Lascia perdere le infiltrazioni, i Casa Pound, eccetera, eccetera. Ci sono. Lascia perdere. C'è la decisione dello Stato che decide di portare i profughi in quel posto. 19 persone. La applichino questa cosa qui. Vadano fino in fondo. Altre voci da Roma, dai, se ci sono. Ci sono profughi, però, che scappano dalla guerra. Ma dove dobbiamo mettere? I documenti. Ma noi, quando c'è stata la guerra, siamo scappati? No. Noi abbiamo combattuto. Non li accogliamo, però, li mandiamo in casa. Ammazzano tutti a casa e basta. Ma che accoglienza? Ma noi chi ci accoglie? Ma noi chi ci accoglie? L'Italia è piena, non è fascismo né razzismo. L'Italia è piena, è satura. Gli italiani quando aprono i negozi pagano le tasse. I cinesi quando aprono i negozi per 3 anni non pagano le tasse, non morrono mai. Ma chi ha detto sta cosa? Dai. Non muoiono ma mai. Ma non è vero, non pagano le tasse ai cinesi per tre anni quando aprono i negozi, non credo. Il popolo, come dici tu, no? L'Italia la gente ha ragione. No, io non ho detto che la gente ha ragione. Ho detto semplicemente che se lo Stato decide, per me no, è sbagliato che arrivino. Il popolo, il popolo che parla, senti il popolo. Ma bisogna popolo. Sentire, no, tu non li senti. Ma bisogna sentire. Le mandati a fare il culo prima. Prima le mandati a fare il culo. Ma quelli sicuramente devono andare a quel paese. Su, ma di cosa stiamo parlando? Stai dicendo la gente che protesta là per impedire. Chi ha protestato in quel modo violento, aggredendo la polizia? Polizia che ha dovuto scortare e le signore, le signore che stanno là ma davanti? Quali signore? Andassero a fare in culo pure quelle, dillo. Ma su immediatamente, dai. Ma che si fa così una protesta? Ma che roba è? Uno può ha diritto di protestare, certo, ma con quella violenza. Luciana, provincia di Treviso, 800240024, che il popolo venga a noi, caro Parezzo, che il popolo venga a noi. Succede adesso. Luciana, provincia di Treviso, buonasera, ciao, buonasera. Luciani, sono la Luciana, ciao. Ma la che ci ha ingannato? Sei Luciana che dalla provincia di Treviso, da Vicenza? Ma allora. Io parlo dalla provincia di Treviso perché ho una figlia che abita a Treviso. La nonnina con fucile. E poi ho una casa in campagna vicino a Quinto. Anche pure case pure che pure d'estate mi trasferisco lì. Brava, stai lì. Allora io ti posso dire dimmi questa tutto. È la situazione che sei venuta a creare. Voi mettiamo le pensioni che ti tolgono i soldi, i medici che ti tolgono, ti mettono il passo su tutto, la casa non ha più valore, tutte queste cose. Vabbè, il poi? Caldo. Sì, il caldo il soprattutto. Caldo, questa è l'esasperazione, ci dovevamo arrivare, ok? Vabbè, ma allora quello, okay, quello che io ti dico è che la gente che abita intorno a Quinto si sta organizzando in comitati. La prossima sono i prefetti e anche il ministro dell'interno. Che vuol dire, quello scusa? Che detta, che detta. Ma che andate vuol dire? A fargli la festa, cosa fa? Che vuol dire, Luciana, scusa, non ho capito. Non lo so, hanno detto la prossima volta tocca ai prefetti. Scusa, ma andiamo sul serio però, Luciana, se ti mettono un extracomunitario, un profugo, un immigrato accanto, vicino a casa tua, che fai tu? Lo sai che io sono quella che ho il fucile a canne mozze, e purtroppo ecco. Lo sappiamo. No, ma guarda, io non sparo a nessuno. Io dico no. Solo che, come dice Parenzo, il cretinetti là che hai in fianco, sì, vai a far la polenta, dai, coi funghi. Che dice che bisogna che loro respirano. Certo che respirano, a casa loro. Chi è che li vuol mandare? Chi è che li vuole ammazzare? Dai, mettiamo, se ti vai piazza... a far la polenta col gorgonzola e radicchio, che è meglio. Sì, è più, ti si confà di più. Ascolta, radicchio di Treviso, buonissimo, polenta e gorgonzola, e non rompi i coglioni. No, dai, avanti, non faccio vai, polenta del tuo, io, no, occupati caro. Del tuo, dai. E anche non sono, beviti non faccio la polenta perché di vino. Fa caldo. Ecco, comunque, fa caldo, Parenzo, il cervello. Meno io parli, voglio dire una cosa, ma il cervello fa caldo a sta signora, il cervello. Meno parli, meglio è, Parenzo, benissimo, hai capito? Benissimo, ecco, benissimo. Nessuno ce l'ha con nessuno. No, nessuno ce l'ha, non ce l'ha con fucile, nessuno, è ora di finirla. È ora di finirla, siamo tutti stanchi. Tutti stanchi, e l'odio, si sta creando l'odio anche verso quelli, neri o quelli che invece lavorano e fanno il loro dovere, ecco. Perché schillato questo odio reciproco ormai che non è più è irreversibile. Vabbè, Luciana, io non ho capito una cosa, se ti piazzano un gruppo di profughi là accanto a casa tua, la reazione accanto qual a è? Casa mia, accanto a casa mia non vengono, guarda, puoi star sicuro che non vengono, perché io di notte sparo a raffica, ecco. Ma che spari a raffica di notte? Ma certo, dai, spara di notte, cazzate, spara. E quello scappano sicuro. A gambe levate, siccome hanno tutti le gambe molto lunghe e poi sono tutti ben attrezzati, hanno le scarpe ultimo modello, le scarpe e sono tutti sistemati, questi non sono profughi, questi sono clandestini. Ti fanno la festa lì questi qua, ti fanno la festa a te, ti fanno a la festa. A me mi fanno la festa, è che mi prendono però. Amica mia, ti fanno la festa questi qua. Che mi prendono, ecco, hai capito? È ora di finirla, perché è ora di finirla. Ordini che dice Parenzo che lo Stato deve sì, guarda che l'ha detto anche Cruciani, l'ha detto anche Cruciani, svegliati. Togliti la polenta Cruciani dalle orecchie, detto, anche Cruciani l'ha detto. No, sì, io ho detto che anche il tuo amichetto Cruciani l'ha detto. Chi è che dà questi ordini? No, dimmi chi è. Lo Stato, il ministro si dell'interno. Si chiama, sì, funziona così. No, il allora questo intanto non è uno Stato legittimato. No. Ha parlato quindi lei. Non è uno Stato legittimo. No, questo. Cos'è? Cos'è questo? No, questo cos'è? Si è autoimposto. Sì, ma Alfano si è autoimposto. Tu ti sei, hai preso una Solana oggi. Si è autoimposto. hai preso troppo sole tu stamattina, no, capito? No, sul terrazzo, mentre facevi lì la vedetta col fucile, hai preso un colpo di sole sulla testa. No, la vedetta, io sto andando in montagna al fresco adesso. Ecco, va al fresco, va al fresco, che così stai sono meglio di testa. Ecco, vabbè. E avevo sentito tutte queste cose, ho fatto bene a sgomberare e mandarle via, perché un proprietario che ha dei, siccome noi anche noi siamo costruttori, è mutuo, eccetera, eccetera, che ha degli appartamenti sfitti, che non riesce a, non può fare un contratto con una cooperativa e affittare a danno degli altri, perché quel condominio là rimanevano dentro 100. Ciao Luciano, ho capito benissimo. Ciao Ennio da Roma, dai, Ennio. Ennio? Marco Milano, Ennio, dimmi, dai, Ennio. Io sono da Roma. Sì, Ennio, dimmi. Buonasera. Volevo dire questo, io abito ad Anzio. Sì. E praticamente è successo che hanno portato circa 60 immigrati 15 giorni fa a Villa Claudia. Sì. Adesso, dopo questo arrivo, avevano detto che non ne sarebbero più arrivati. Invece hanno fatto richiesta queste persone per altri 80 immigrati. Parlo, la richiesta l'ha fatta direttamente l'albergo dove queste persone alloggiano. Allora io volevo dire a Parenzo, chiedere anzi, ma questo albergo è stato chiuso l'anno scorso dall'ASL per carenza di igiene. Vabbè, okay? Dunque? Adesso per i profughi va bene, e questo già per me è sbagliato. Primo. Certo che è sbagliato, perché deve essere secondo, a norma, non c'è dubbio. Okay, non c'è dubbio. Vabbè, allora, poi? Poi un'altra cosa, tu sai che tra Aprilia, Lavinio ed Anzio ci sono praticamente circa tre o quattro comunità di Rom, no? Vabbè, sì, dunque, certo, adesso hanno aggiunto anche i profughi, e ti devo dire che da Aprilia sono i Rom che partono tutte le mattine e vanno alla stazione Termini praticamente a... Dunque che faresti tu? Che faresti con questi campi Rom, campi profughi ad Aprilia, Latina, quello che è? Dimmi. Non ho capito, scusami. Che cosa faresti allora? No, io dico questo, Cruciani, che lo Stato comunque molte volte fa confusione, nel senso che questa gente va smissata, non può essere ammucchiata in questi posti così piccoli, perché poi diventa una guerra, come diceva la signora prima, tra poveri, perché qui sai benissimo che abbiano solo... Vabbè, però ragazzi, nelle grandi città non va bene perché non va bene, nei piccoli centri non va bene, dunque probabilmente in posti isolati oppure in un'isola, come dice, come dice Morano, non lo so, da qualche parte sì. Il problema è che arrivano e purtroppo non si riesce a fermare questo flusso, ma sarebbe un discorso molto lungo. Io sono sempre per quella famosa legge australiana e quella famosa, come dire, quella famosa attitudine, no? Quel carattere australiano, quella decisione australiana. Pensate. No way. No way. Qui non si entra. Pubblicità. Se i cinesi, quando aprono i negozi per 3 anni e non pagano le tasse, non morono mai. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Ormai è tutto degradato. Io adoro quest'uomo, Dominique Strauss-Kahn, ve lo ricordate? Sì, l'ex presidente del Fondo Monetario Internazionale, sembrava sul punto di poter conquistare tutta la Francia, grosso, massiccio, un gran porco, un grande libertino, ama le orge, forse anche un po' di violenza quando fa sesso, dicono, fatti suoi, assolutamente, però chissà come mai è diventato consigliere di uno Stato. Lo sai qual è stato? Come no? Di Fidel Castro. Cuba. Amico mio, me lo voglio vedere. Perché il signor Dominique Strauss-Kahn a Cuba. Pieno di puttane, tutto intorno di sappiamo. Cuba. Importante è che faccia bene il suo mestiere di economista. Quello che no? Se ne frega, quello, consigliere di Castro. C'è da dire una cosa: primo se ne fotte di dittatori, Castro, non Castro. Se ne, basta pagare, fa il consulente, eccetera, eccetera. Grande professionista, ma io lo adoro, numero uno assoluto. E soprattutto sceglie. Altro che questa Lagarde, chi è questa signora Lagarde? Quando c'era lui al Fondo Monetario, festini, il denaro che circolava, un uomo vero. Adesso che, a Cuba, certo. Adesso a Cuba, pensa a Cuba, pensa quello che combina. Ma pensa quello che combina Cuba. Non lo so, è importante che faccia bene il suo mestiere. A caso, secondo te, o no? È un caso o no? Beh, ha scelto un paese in cui le sue perversioni sessuali, le può, sue come dire, attitudini vengono meglio espresse. Si possono esprimere, diciamo, al top, al massimo. Lì, sì, certo. Numero uno. La Thailandia, sai che potrei farmi anche un busto suo? Sì. Potrei aveva un busto di Dominique nudo. Ma è stato un grande presidente del Fondo Monetario. Ma non lo so, me ne frega un cazzo del Fondo Monetario. È la radio del Sole 24 Ore, chi se ne frega il Fondo Monetario? Ma che me ne frega? È più interessante quello che se ne frega. Scusa, è molto più interessante il racconto delle sue perversioni. Non c'è dubbio, ma figuriamoci. Piuttosto delle sue idee sul Fondo Monetario Internazionale. Però magari è conosciuto più per essere un gran puttaniere piuttosto che il presidente del Fondo Monetario Internazionale. Forse anche questo è vero. Forse anche questo è vero. Amico mio. Forse anche questo è vero. E forza. Forse. Uno degli scontri televisivi, come dire, no, ma c'è da parlare di Berlusconi, però attenzione, prima degli scontri televisivi sentiremo più avanti. Beh, amico mio, Berlusconi ha un progetto in testa, tu capisci, no? Già la cosa è abbastanza strana. Berlusconi ha un progetto, cioè non si arrende di fronte all'inevitabile declino, e ha un progetto folle, una casa della speranza la chiama. Sì, una volta c'era la casa della libertà, adesso la casa della speranza. La cosa incredibile che dice Berlusconi, forse l'ascolteremo dopo, o forse adesso, è un'altra. Dice: io voglio fare un partito senza politici. Cioè, senza politici di professione. Sì, ma a parte che l'ha sempre detto, gli stanno sul cazzo i politici di professione. Beh, senza considerare che lui è diventato un politico di professione. Ma non c'è dubbio, ma lui dice, come la Forza Italia del 94, ma che no? Vuol dire? Ma non è così. Nel a parte 94, che ha imbarcato una marea dei socialisti e democristiani. Un po' di quelli e poi andò a Pubblicitalia e prese tutti. Berlusconi ha un progetto folle. Già quello è una follia, già un progetto che ormai viene intestato a Berlusconi, però l'uomo ancora ci crede. Una casa della speranza. E allora io ho in mente un progetto, il solito progetto folle, è questo. Forza Italia rimane, bisogna presentargli un'altra possibilità, che so, una grande casa della speranza, qualcosa che sia lontano dall'essere partito, che sia, non sia neppure un movimento, una cooperazione, qualche cosa in cui possono entrare tutti, partiti, comunità, club, tutti. E dirgli, questa volta a loro sì, perché hanno sfiducia in noi, professionisti della politica. Ragazzi, ma di che stiamo parlando? Ma possono entrare, ma che è una comunità? Che cos'è? Una comunità? Comunità di recupero? Una comunità, tutti insieme dentro, chi poi? Può essere un'idea. Ma chi? No, cosa? Di che si sta parlando? Il club, i Lions, no, ma i Rotary, una... ma dai, che ne so, la società civile. Dai, e dai, e dai. Se dovesse andare in galera, fate la rivoluzione, che è Cristo questo paese. Anzi, uscita pure Cristo. Sono ancora qui ad affrontare le ire della sinistra e ad affrontare, speriamo di no, ma le eventuali azioni di qualche PM, che non essendo io protetto da nulla, non sono parlamentare, potrebbero anche portarmi a non essere più libero. Se questo dovesse accadere, Cristo, io spero che voi abbiate il coraggio di fare una rivoluzione. A destra, come sapete, emerge Salvini, il quale è avvelenato con questa cosa qua della legalizzazione della marijuana. Posso tranquillizzare Salvini, non ci sarà mai, cioè in Italia non si arriverà mai. Purtroppo. È un tentativo trasversale, 250 deputati, 230 quelli che sono, ma voglio, come dire, rassicurare quelli che sono contro, quelli che dicono che lo Stato diventa spacciatore, quelli che dicono che saremo invasi nelle strade da zombie di ragazzi drogati, come se non si drogassero adesso, no? Come se i ragazzi adesso avessero difficoltà a trovare droghe, puoi girare qui e trovare droghe ovunque. Ovunque, a disposizione di tutti, qualsiasi tipo di droga. Qualsiasi tipo di droga. L'unica strada che non è stata percorsa, io non dico che sia risolutiva, l'unica che non è stata percorsa in Italia è quella della legalizzazione. Io dico proviamola. Salvini dice il contrario. È allucinante che ci siano 250 parlamentari che in un momento in cui l'emergenza è il lavoro, la disoccupazione, l'immigrazione, si occupino di permettere a gente di farsi le canne ai giardinetti o fuori dalle scuole. Voglio ancora una volta precisare a Salvini che nei giardinetti, a Milano per esempio, nei parchi dove abito io, nei parchi ogni volta che vado a correre, ogni volta che passo per caso a piedi, sento continuamente profumo di canne. No, ma meno male, ma ti posso dire no, di meno più? Male, non lo so. Oggi pomeriggio alle 3 mi trovavo in zona Prati, sono a Roma, andato a prendere un caffè e il barista, molto simpatico, io non dirò il nome, è uscito e ha detto: oh, se rullavo una canna, e si è rullato una cannetta. Ma quello che c'entra adesso? No, il barista si è rullato la canna, quello non va fuori, bene. Fuori dal bar. Ma non va bene, poi perché deve guidare, che deve fare? No, va bene. Era lì, tranquillo, a parete, che diceva se fumava, ho detto no, guarda, fa un po' castacallara, se mi fumo una canna è sì, tutto a 40 finito. Gradi, certamente. Io la fumo solo d'inverno, adesso d'estate, non è che metto lì. No, però voglio dire. Però voglio... per dirti, no, non sono i giardinetti, non è Parco Sempione, no, ma voglio non tranquillizzare... è Villa Borghese. Ti voglio tranquillizzare. In un tranquillo certo. caffè di Prati, questo barista, tutto bello tatuato completamente, si è rullato un... Vabbè, una appunto, cannetta. Non c'è bisogno. Centro a Roma, della nuova legge di legalizzazione. Salvini lo sa benissimo. No, che poi si lui faccia era un a favore, giro. Lui, sì, l'abbiamo già detto ieri. Si faccia un giro. Ripetiamolo. Un giro di parchi a Milano. E noterà che ci sono, che c'è una marea di ragazzi che fanno capannello intorno e si fanno le canne. Oggi, col, più o meno col proibizionismo, chiamiamolo così. Beh, con il proibizionismo. Beh, no, l'uso personale. No, messo. Per dire. Cioè, sì, no, no, però è vero. Insomma, dai, regime su. Proibizionista. La canna aiuta. Giustamente mi segnalano che al Parco Sempione, mentre uno corre, ti offrono l'erba. Un altro amico che dice: l'erba che non è quella che calpesti. No, non è quella che prendono lì dal parco. Pensa che... No, no, ti offrono l'erba non per l'erba, darti... detta anche la ganja, no? In gergo. Io non lo so perché non fumo. Scusa. La ganja. Ti offrono, ci succede di tutto. Un po' di ganja, fratello, vedi. No, ma succede di tutto oggi, di tutto succede. Fratello, fumo buono. È inutile che dicono no. Cioccolata, arriva... quella l'hashish, quello che chiamano cioccolata. Arrivano, arrivano cose, questi migranti, no? E ti dicono: vuoi cioccolata, 50 euro cioccolata, cioccolata buona. No, ti ricordi? Anche dietro il vetro, sì. Lo sai. Cioccolata, cioco buono impastato e cioccolata. Marco da Milano, dai, Marco. È vero? Dai, no. Su, ragazzi, Marco, dai. Cioccolata. Sì, ciao. Dimmi, ciao dimmi. Volevo dare ragione a Parenzo una volta nella vita. Addirittura, come mai? Io condivido tutto quello che dice, anche stasera lo condivido. Mamma mia, quello stai messo male. Quello che è successo male. A Roma, sono pazzo io. Ma quello che è successo a Roma... Cioè, qui ci dobbiamo costruire le questioni politiche, immigrati, eccetera. È solo una questione di carattere giudiziario. Passa certo. un autobus con degli esseri umani sopra, circondato dalla polizia, è già questa una roba terzo mondo, esatto, in cui della gente si permette di aggredire. Non voglio parlare di Casa Pound, che fanno pena. Ma parlo anche no, ma io di in linea teorica sono d'accordo con te. Io sono anche roba d'accordo. Da America anni 30. Da Alabama. Ma roba da stato di Alabama. Nell'America anni 30, due italiani immigrati, se vi ricordate bene, Sacco e Vanzetti, come no, che non sì. avevano fatto nulla. Vabbè, ragazzi, però non andiamo a non facciamo paragoni assurdi. Sacco e Vanzetti, quindi, certo, come? Quindi c'è uno Stato in questa Italia, io mi chiedo, c'è uno Stato. Quindi vanno trattati in questa maniera, perché tirare in ballo i politici? Ma perché noi come siamo? Siamo diversi dai nostri politici. No, ma io sono d'accordo con te, linea di massima. Io dico, è sbagliata la decisione di distribuire tutti questi profughi, va trovata una soluzione, vanno fermati prima, eccetera, eccetera. Ma una volta arrivati in Italia, lo Stato decide di metterli questa volta non in un condominio, non in un condominio, non accanto a gente che ha pagato mutui, eccetera, eccetera. Ha deciso di metterli in una scuola a Roma, in periferia, in una scuola riadattata. Lontana anche dalle case, non guarda, vicino. Certo, a qualche residente c'è sempre cosa... là vicino. Dopodiché lo Stato deve far applicare a tutti i costi quello che ha deciso. Ma siccome non hanno le palle, siccome non hanno le palle, Alfano, i prefetti, Gabrielli forse un po' più di palle rispetto al prefetto di Treviso che si è fatto appunto. Si è fatto fregare alla fine, diciamo la verità. No, si è fatto sopraffare dalla rivolta dei cittadini. Dalla rivolta dei cittadini. Poteva trovarla prima. Va bene, Vincenzo da Napoli, vai. Vincenzo da Napoli. Vincenzo? Pronto? Chi c'è? Dai, dimmi. Eccomi. Vabbè, io volevo partire con un argomento terra-terra, ma poi per fare una riflessione sulla questione di dove si mettono gli immigrati. Intanto mai ai Parioli, mai magari il Vaticano, no? Voglio dire che è così ben disposto. Ah, tra l'altro, voglio dire una cosa, Vincenzo. È stato chiesto ieri alla credo alla diocesi di Genova di ospitare 90 profughi. Hanno risposto in un locale molto ampio, molto grande, non mi ricordo qual è esattamente, l'ho letto oggi sui giornali sul secolo XIX di Genova, un responsabile della diocesi di Genova, del vicariato di Genova, ha detto no, ci sono gli esercizi spirituali, non possiamo ospitare 90 profughi. Tu capisci, la chiesa che ha dei locali immensi ovunque, ci sono gli esercizi spirituali. Sbagliato. Capito, Vincenzo, gli esercizi spirituali, Vincenzo. Al giorno, 10 ore al giorno, torna la sera, sono cazzate, però sono importanti nella vita delle persone comuni. Ma sta riflessione terra terra era per dire, consentimi di dire una cosa, una classe dirigente anche a livello internazionale terra terra, come siamo in un'epoca sfortunata. Per Sarkozy ci vorrebbe quell'arnese che inventarono i suoi avi qualche anno fa, la ghigliottina. Che c'entra Sarkozy? Era meglio che Duffy? Era meglio che Dafi Libia. Che Dafi, vabbè. Era meglio che Dafi Libia, quell'altro Berlusconi nel quale che ho votato 20 anni fa. Vabbè, che ha fatto? Lo struzzo, addirittura una cosa aberrante, cioè lui ci andava a braccetto con Gheddafi, l'ha fatto, ma non perché io sia un fan di Gheddafi, attenzione, ma tutti ci insegnano, chiunque bazzichi un po' di questioni internazionali, che degli equilibri precari si raggiungono a fatica, e noi oggi ne paghiamo le conseguenze. Va bene, ciao. Io non so se ha seguito le cronache, caro Parenzo, di queste ore, un nostro amico, però sicuramente è caldissimo sull'argomento della rivolta dei cittadini, delle massaie di Roma che hanno paura di essere stuprate, hanno paura di essere sopraffatte, di essere violentate dagli immigrati che arrivano. Non so da dove, ma che vogliono alloggiare in un ex scuola o a Treviso, le persone che hanno paura semplicemente perché questi immigrati magari rispondono col dito medio, parlano al telefonino, loro dicono di ultima generazione. Uno non può parlare al telefonino, guarda che io non so come la pensa un nostro amico. Oliviero, come stai? Bella, ragazzi, benedetti da Dio, come stato? Ciao caro, ciao. Non c'è male. Tutto ben? Come va l'ombrete? Tutto ben? No, le ombrete le fai tu. Se mona in giro, se piende mona, guarda, piende mona. Piende mona, ho sentito, se piende mona. Che dici? Ma no, che... no, ma ragazzi, ma è chiaro che voi vi fa comodo che ci siano della gente così balberata, ma sono una minoranza, vi posso garantire. Ma chi dici? Una minoranza chi? Questi verdi di Treviso che sono dei poveretti. Ma perché a Treviso? Fanno notizia questi qua che fanno i razzisti, no? Ci sono i razzisti, sì, ma ci sono perdono. Però vi posso garantire che ormai sono una minoranza che purtroppo fa notizia. Ma non ho capito, tu... Vi posso garantire che ci sono dei veneti che invece non sono così, assolutamente. Sono solidali, hanno capito che sono pronti all'accoglienza. Ma è logico, hanno capito che questo è il futuro che dovremmo affrontare. Va bene, Oliviero, però ti voglio chiedere una cosa. Questi qua di Treviso che si sono incazzati perché arrivano 100 profughi, 100 profughi. Madonna. Ma questi qua sono... Come hai detto, scusa? 100. Quanti? Ma non ho capito, perché sono pochi. Ma dai, 100 profughi, ma... Vabbè, adesso dai, vabbè. Abbiamo già dato con le bestemmie, insomma. Dobbiamo andare con lo spirito, dai. Dimmi. No, ho capito, Oliviero, io voglio dire una cosa, cioè questi qua, sono... Come li consideri questi qua che si sono ribellati all'arrivo di 100 profughi? Dei poveretti che non capiscono il futuro, che non capiscono da che parte sta andando il mondo, dobbiamo essere pronti, dobbiamo essere intelligenti, dobbiamo capire, dobbiamo prepararci. Però hanno vinto, hanno vinto. Ah sì, hanno vinto perché di fronte a certi... dove fare? Come i bambini coglioni, insomma, dai. Cioè ha sbagliato il prefetto a calare le braghe, dici? Insomma, col caldo che fa... Perfetto, intelligentemente ha fatto una cosa giusta. Cioè? No, quando qualcuno reagisce così è malato. Non è questione di giustizia. Cioè sono malati quelli là, sono malati. Ma sono malati, sì, al modo loro sono malati. Poveretti, tutti i violenti hanno paura di un'eventuale violenza. Scusami, Oliviero, io dico una cosa però, saranno anche malati, però sì. Vedevano gente che ha fatto mutui per 20, 30 anni, eccetera, eccetera. Cioè, sì. Capisco, infatti hanno fatto gli schei e adesso hanno paura di perderli, hanno tutte le ragioni, ma chi gliel'ha detto che glieli porteranno via? Ma dove sono le prove? Ma ditemi un po'. No, tutta, ma effettivamente è una reazione di pochi. È una reazione di poche persone. Quelli, a tutti gli ottusi, il diverso fa paura. Allora, ma che ti ha ricordato questa rivolta di Treviso e anche quella di Roma? Cioè, come dice Parenzo, l'America degli anni, l'America del razzismo, una cosa del dell'Alabama, genere. Dell'Alabama, dello stato dell'Alabama. No, dove... peggio, cioè? Peggio, perché adesso abbiamo visto l'America del razzismo, abbiamo visto tutte quelle. Dimostrazioni e queste esperienze che l'umanità ha passato facendo questo e noi adesso forse facciamo peggio, cioè sono peggio del Ku Klux Klan. No, non puoi dire del Ku Klux Klan, perché almeno quello aveva un'organizzazione. Questi qua è proprio di pancia, una roba da... Allora, ragazzi, quelli che ci dicono, quello che ci dicono... Troglodita, salviniana, che... ignorante come poco, come lui. Allora, quelli che ci dicono la bestemmia di Toscani. Allora, Toscani ha semplicemente riprodotto, ha rifatto prima il verso, sì, il verso a quella che è la reazione per strada, diciamo, di un Veneto molto popolare. Vabbè, no? Se qualcuno si è offeso, chiederà scusa. Ma dai. Sì, vabbè, ma non è. Cioè, non, ha riprodotto con quell'espressione, no? Con quell'espressione che non abbiamo sentito. Che hai detto? Sì, adesso non è che lo possiamo, non è che lo possiamo ridire, dai. Hai detto che lo senti tutto il tempo. Oh, Parenzo, non lo dite tutto il tempo? Vabbè, ho capito, no, però... No, non si bestemmia. Se qualcuno si incazza sulla bestemmia. No, certo. Ma io non pensavo mica al Dio quello lì. A chi pensavi? Scusa. Vabbè, ma non si bestemmia, dai, non insistiamo. Non si bestemmia, no, ma lui, basta. Aspetta, io credo che lui l'abbia fatto. Non ha pensato una bestemmia. No, allora... un'espressione di disperazione. Lui voleva con questa espressione, che non si fa e non si pronunciano queste cose, non si bestemmia, voleva, come dire, riprodurre, voleva farci capire qual è l'espressione tipica di un Veneto incazzato, perché sì, arrivano di qualche Veneto incazzato. Quelli lì, a me interessano quelli, io parlavo di quelli lì, va bene, sì, perché sì. Gli altri ci sono tantissimi, la maggioranza degli altri veneti, vi posso garantire, è molto civile. Scusa, ma quelle donne a Roma che hanno detto abbiamo paura di essere stuprate, cose di questo tipo? Poverette, hanno un problema, devono andare al psicanalista. Perché? No, non è il problema dei profughi, loro hanno un problema loro. Sì. Hanno perché un problema dici? Loro. Cioè, perché sì, tu dici, sono paure assurde. Cosa, no, ma su che cosa si basa, scusa? Su nulla, dici. Gli stupri sono fatti anche da italiani a italiane, quindi... Non è una questione di nazionalità lo stupro, eh? È questione di ignoranza, di violenza, di tante altre ragioni. Ma spiegami un attimo, la Chiesa Cattolica, la diocesi di Genova, per esempio, che si rifiuta di accogliere 90 profughi dicendo che ci sono gli esercizi spirituali, come la giudichi? Ritorno a... qui dovrebbe essere Dio che dovrebbe bestemmiare contro la sua Chiesa, insomma. Dovrebbe essere una bestemmia al contrario. Lasciamo stare le bestemmie, guarda, veramente. Ma lasciamo stare le bestemmie, perché preso bestemmia come esempio estremo di una certa civiltà, scusatemi, non pensavo proprio a bestemmiare. Ma guarda, veramente stiamo esagerando su questa cosa. Lui ha riprodotto. Adesso sì, io ho capito, ma non quando non sono d'accordo, attacco. Tu dai, relata refero. Non fare il baciabanchi, Dio santo. Ma no, dai. Io no, io sono contro la bestemmia. Che ti devo dire, ma Oliviero? Mi dispiace. Ma non ha bestemmiato. Attenzione, non ha pensato di bestemmiare, mai bestemmiato in vita mia. Non ha bestemmiato, ragazzi, non ha bestemmiato, ha riprodotto a modo suo quello che è la reazione. Sicuramente la reazione diciamo di un Veneto, la reazione cinematografica, esatto, di uno incazzato per l'arrivo degli immigrati, preoccupato per l'arrivo degli immigrati. Cosa questo voleva fare qua? Dai, adesso non mi fate difendere Oliviero Toscani, non c'è da difendere, appunto, per favore, da te non voglio essere. Vai, non rompere i coglioni, dai, su, che comunque l'hai ripetuta pure due volte, lo so il modo in cui l'hai ripetuta, ma non lo volevi dire tu, cioè non è che c'è una... Comunque, ragazzi, se qualcuno si è incazzato, si incazza, ma chi se ne frega, cioè, sai che vi dico, chi se ne frega, lo so benissimo il modo in cui l'ha detto Oliviero Toscani, non rompete le scatole, basta. Ma poi a chi lo stai dicendo? Perché ti scrivono, ti hanno scritto delle cose. Stai discutendo su quello che hai detto. Stai discutendo sulle parole che ho detto per far capire la reazione di un certo genere di veneti. Comunque qualcuno mi scrive. Sono sicuro che diranno quello. Cosa diranno? Sono sicuro che qualcuno dirà quello che io ho detto. No, ma sicuro già stanno scrivendo che hai bestemmiato, eccetera, eccetera. No, ditegli vergogna. Purtroppo mi vergogno, andrò all'inferno. Andrò all'inferno, quindi non mi vedranno, loro andranno in paradiso. Ma no, il problema è colpire la sensibilità di persone che ovviamente si offendono, sì, perché è un credo, capito? Questo ti dico. La sensibilità è di tutti, eh. Chi è veramente liberale ha il rispetto anche di chi crede, capito? Questo è il punto. Io colpito, la mia sensibilità è colpita tutti i giorni dalle cazzate che sento, da certe reazioni. Ma ci mancherebbe, certo! E allora non gli mando le email, non gli mando le SMS dicendo mi ha offeso. È così. Vabbè, chiudiamo questo discorso qua. C'è la pubblicità. Olivero, resta qui, 800 24 00 24. Questa è, come vi ho già detto in una precedente trasmissione, una informazione da O'Clock. La Zanzara. Perché ti cadi sotto, sei un lettaculo, e mi dispiace. Sei un lettaculo e ridi, però non sai che dire. Adesso chiudimi il telefono in faccia perché sono un pazzo, dai. Oh, sai chi è che fa l'esempio dell'Alabama, Parenzo? Ferrero, l'ex segretario di Rifondazione Comunista. Ogni tanto forse esiste ancora Rifondazione Comunista. Beh, sì che c'è, certo. Sì. C'è ancora Rifondazione Comunista? Comunque, sì. Esiste come partito. Ma certo, c'era anche quello di Rimini che abbiamo sentito. Ah, sì, è vero, giorno, è vero, che era addirittura il segretario. Ma è una notizia che esiste ancora Rifondazione Comunista. Comunque, non ce l'ho con Ferrero, per carità. Bruciare i materassi è come essere in Alabama. Poi Ferrero pensa che quella roba lì che si è visto è barbarie, perché quando si arriva a distruggere una casa, a bruciare i materassi, a bruciare le suppelletti, cioè a distruggere, piuttosto che poter accogliere dei profughi, quella roba lì è peggio dell'Alabama che io vedevo nei film quando ero bambino e mi parlavano del razzismo. Oliviero? Sì, eccomi. Allora, tu ti sei mai fatto le canne? Mi stanno sulle palle tutti quelli che si drogano. Cioè? Quelli che si fanno i tatuaggi. Sì, perché trovo quelli che hanno bisogno di qualcosa per essere un pochettino di più, essere diversi, non mi interessa. Sai che anch'io non ho sempre pensato ma così. Ma diversi, può essere anche un modo per rilassarsi. Penso seriamente, non ho nessun rispetto per la droga o per chi si droga. E c'è una differenza tra droga leggera e droga pesante? Beh, o no? Certo che c'è. Ma sì, lo dice lui perché gli va bene così. Io trovo che io sono per la legalizzazione. Questo lo dicono i medici, lo dicono i medici. Non è che io sono contrario. Il mio è solamente un'opinione sulla droga. Poi uno può fare quello che vuole. Cioè, qualsiasi tipo di droga, hashish, cocaina, eroina. Beh, è chiaro, uno più imbecille è, più non vuole essere se stesso, ma spera di essere. Cioè, a te un ti po' stanno meglio sui quelli che si. Quello che si fa, quelli no, che no, si fanno le canne. Non li rispetto, non ho rispetto per questi qua, di questa debolezza qui. È una debolezza, cioè farsi farsi le canne. È logico, voler essere qualcosa di più di quello che sei. Non avere il coraggio di essere quello che sei. E non la legalizzeresti la droga leggera? Subito, ma è logico. Ma ah, è logico. Ho capito. Va smitizzata, ma è logico. È una roba vabbè, così. Da coglioni, da deboli. No, cioè, chi si fa le canne con te è un debole. Bene, ragazzi, io vengo da una generazione, ho avuto tanti amici morti così, quindi sì, ho anche sofferto di questa menata. Ho anche sofferto. In che senso hai anche sofferto? No, ho perso degli amici, ho una decina, delle degenerazioni, dei cervelli andati a male. Pensando sì, però la droga pesante. Negli anni 70 sono terribili. Pensando di diventare artisti, facevano strada qui. Forse ci sono delle eccezioni che posso far questo, ma in realtà non è vero. Poi vi posso anche garantire tutte questi miti di questi grandi che si drogano. Attenzione, non puoi tenere insieme un gruppo 50 anni se sei un drogato. Sì, però scusami, Oliviero, stiamo parlando di droga pesante, però, che ha rovinato un sacco di vite. Cioè, secondo te anche l'hashish, anche la marijuana? No, ma infatti rovina la vita, c'è niente da fare. Uno cioè, rovina la vita pure quello? Ho bisogno di drogarmi per sentirmi meglio. Vuol dire che è un debole, che non è sicuro, non vuole essere quello che è. Ma guarda che c'è chi la usa anche a scopo terapeutico, perché c'è l'uso della cannabis, è lo stesso prodotto. Non ha il senso della libertà di accettare quello che è. Ma guarda che la cannabis, c'è chi la usa a scopo terapeutico per lenire il dolore. Ma questo è un altro discorso. È la stessa principio attivo. Che hanno sempre bisogno le pillole di qua, le pillole di vitamina, le pillole qua, le pillole. Si di dà là. Anche la morfina ai malati per lenire il dolore. Ai malati si dà la morfina, ai malati si danno le droghe. scusami un attimo, ma voglio chiederti una cosa. Nei giorni scorsi Parenzo insieme a Liguori hanno definito, caro Oliviero, hanno definito i clienti delle prostitute. No, ti dico solo questo, io spero che tu sia d'accordo con me. I clienti delle prostitute, com'è che li avete definiti? Dei miserabili. Dei miserabili, cioè chi va a prostitute, chi va a puttane è un perché miserabile. Perché sfrutta le donne, è non un c'è dubbio, miserabile. Quelle sulla strada. Che dici tu? Beh, è giusto. Ma come giusto? No, non ce la faccio più. Pure tu ti ci metti con questa roba. No, dai. Ma povera, ma io non ho niente con i miserabili. Ma ci sono dei miserabili. Stroscano è un miserabile, ma io devo dire che mi diverte. Ma figurati, anche cioè, non sei mai stato. Tu non sei mai andato a puttane? Ma bisogna, sono le donne più belle del mondo in mano. Ma che non fate i coglioni? Siete dei mediocri. Avete bisogno di pagare per avere un orgasmo. Aspetta che non si sente, non si sente, richiamate Toscani. Oh, make me over, I'm all I wanna be, a walking study. Andrea da Roma, dai! Io vi chiamo direttamente da Casale San Nicola, il luogo di San Potito, sì, sì, sì, di oggi. A volte capita, quando ci si trova all'interno della realtà, e sentendola poi alla radio, rendersi conto che a volte il racconto fatto dai giornalisti forse non è così veritiero, competente. Io non ho capito una cosa, tu sei residente lì, sei andato a protestare? Io vivo lì da 32 anni. Ma sei andato a protestare, oggi o no? Ero presente, come no? Ero presente insieme alla mia famiglia in questa protesta del tutto civile, insomma. Siamo civile che... non direi, Se, guardi, Parenzo, io, forse lei ovviamente non era presente, io ero presente, c'erano delle signore anziane, ora mia mamma se mi sente mi strozza, che erano lì sedute a terra. Sì, magari c'erano anche delle persone normali e tranquille e per bene, questo non lo metto in dubbio. A vedere le immagini e il racconto di tutti i giornali, devo dire tutti, Corriere della Sera, Repubblica, Sole 24, tutto, mi sembra che quelle immagini siano inequivocabili. Al di là dei dettagli, Andrea. Non sono inequivocabili, sono invece tutto affatto equivocate. Scusa, ma perché volevi impedire? Perché volevi impedire insieme allora, alla tua famiglia? Che cercavo di raccontarvi anche con le mie telefonate. Allora, quella è una ex scuola, andavo a scuola io lì quando ero ragazzino. Sì. Questa scuola è in mezzo, noi viviamo in un comprensorio privato, è una zona completamente privata. Ogni proprietario delle case è proprietario anche della strada fino a metà, a mezzeria. Vuol Vabbè, dire che esiste una servitù di passaggio all'interno. Vabbè, ma questi sono dettagli, dai, andiamo al sodo. Non sono dettagli. Ma la realtà è che voi non volete quei profughi là, quegli immigrati là, non li volete. Continuo a raccontarvi. Sì, però perché ti attacchi alla la strada, le cose, eccetera? No, quella è una villa privata, senza allaccio in fogna, senza strutture pubbliche, senza illuminazione pubblica, la strada è buia, non c'è una stazione, non ci sono mezzi pubblici, non c'è niente di niente. È in mezzo a tutti noi, non so se voi conoscete il comprensorio dell'Loggiata a 30 metri, è esattamente identico, sono una serie di villette in mezzo alle quali sono state messe 100 persone nuove in una comunità di 200 persone in tutto. Questa ho capito, ma sono lontani, non sono a contatto. No, Cruciani, guardi, Cruciani, mi spiace che lei la dica così, perché non è così. Provi a venire a fare una passeggiata. Mi spiace che lo dica. Cioè tu mi stai dicendo, no, ma io sto ascoltando. Tu mi stai dicendo che hanno messo all'interno di questo comprensorio, diciamo, in cui ci sono... tipo Loggiata a Roma, per chi non lo conoscesse. Esattamente, è lì davanti, Cruciani, è a 30. Però non ci sono le guardie private a protezione di questo comprensorio. Non è chiuso, non c'è più. Una volta c'era un consorzio, poi... Va bene, non c'è più. Dunque c'è un passaggio libero, diciamo. Cioè, all'interno di questa comunità, formata da 200 persone, c'è un'ex scuola che hanno riadattato e hanno deciso di mettere questi profughi, immigrati, clandestini, chiamateli come cazzo vi pare. Persone. Vabbè, sì, che sono persone... Vabbè, ma Cruciani, sono persone, lo sappiamo. Lo sappiamo. Sono delle persone. Che vuol dire? Ma non l'abbiamo capito. Avanti. Non mi sembra che la Merkel di fronte alla bambina libanese, che peraltro oggi è stata accettata. Vi prego. Voglio sentire. Vabbè, allora, Andrea. No, ho capito. Allora, hanno messo 19 persone, credo che ne debbano mettere altre 80, saranno 90. Saranno 60 in tutto, Cruciani. Saranno 60 in tutto. Allora, il timore qual è? Io voglio capire, il timore qual è? il timore è, dunque, la zona, ripeto, una zona completamente buia. Il timore è che queste persone che lei immagina, oggi ci sarà un po' di polizia, domani un po' meno, fra 20 giorni, un mese, non ci sarà più nessuno. Queste persone, come peraltro è normale che sia, saranno libere di uscire. E come tutte le persone senza lavoro, senza vita, peraltro, come si dice, disperate, saranno disposte a fare di tutto per scampare la giornata. Noi abbiamo una paura, passatemi la parola, fottuta. Io vivo lì da 30 anni e la sera con la mia ragazza ho paura a stare in giardino. Ragazzi, non è giusto. Poi lei ha detto una cosa sacrosanta, che è il fatto che la pubblica autorità, che ritiene di dover è giusto porsi facendo scudo e anche in qualche modo aggredendo la resistenza passiva. Non è la resistenza passiva quella roba là. Lui ha fatto resistenza passiva, altri io no. Io sto parlando della gazzarra. Ma quella è un'altra cosa. Andrea sta parlando per sé. Hai visto 14 gesti? Hai visto? Ci sono 14. Ma fai parlare, non c'eri, fai parlare Andrea, che c'era. Quindi qualcuno, non ci sono 14 qualcuno gesti ha feriti. Aggredito i poliziotti? E di noi guardi, c'è la mia madre a terra che piange, ma guardate Sky, c'è la mia madre a terra che piange. Ma lascia perdere Sky, tu hai ho capito visto? Che la mamma piangeva e mi dispiace. C'erano 14 agenti feriti? Ha visto scontri con i poliziotti o tutto inventato? I poliziotti a un certo punto, quando si sono resi conto che passare non era possibile con le vie ordinarie, perché noi eravamo lì fermi, a un certo punto hanno, giustamente, ha ragione Crusani, eseguito un ordine. L'autorità, quando ha un ordine, per la miseria lo deve eseguire. Il problema qui è anche avranno caricato. Ma è logico, l'autorità deve fare il suo lavoro per la miseria, non c'è altro, non c'è niente da aggiungere. Ma voi che volete fare adesso, ragazzi, al di là dei dettagli adesso? Ma non è un dettaglio. Ammettete, ti ha fatto piacere la presenza di Casa Pound là o no? Casa Pound è stata, e io tra l'altro non sapevo neanche di vostro, non mi occupo della cosa, Casa Pound è stata in tutti questi mesi a fare il numero insieme a noi cittadini, eravamo lì, facevamo presidio, facevamo le nottate, Casa Pound è stata lì con noi. E devo dire che non ho visto niente di particolarmente eclatante. Tengo a sottolineare una cosa: quando lei dice che l'ordine dell'autorità va eseguito, il problema è che bisogna cercare di capire se l'ordine dell'autorità viene da un procedimento legittimo. In 30 secondi le racconto quello che è successo. No, però con la scusa, gara no, aspetta un attimo. Andrea, io voglio capire una cosa: hanno fatto bene secondo te a menare i poliziotti o no? Se sono stati menati, sì o no? No, nessun poliziotto è stato menato. Beh, guardate, allora venite fuori la miseria, dovete venire. Si sono fatti male da soli i poliziotti. I feriti sono caduti. Signor Parenzo, sono i poliziotti sono caduti. Oh, beh, ma se qualcuno che fa. Tra l'altro, io il dispiacere più enorme. Alla fine dei passerugli, io ho detto una cosa rivolto agli altri amici che erano lì con noi. Detto, ragazzi, abbiamo perso. Dietro di me c'era un poliziotto che mi ha guardato quasi con le lacrime agli occhi, dicendo: no, raga, qua abbiamo perso. Vabbè, parla più alto, però parla con la voce più alta, sennò non ti sentiamo, dai. Caspita, io di solito urlo. I poliziotti hanno dovuto eseguire un ordine che, piuttosto che eseguire, si sarebbero tagliati una mano. Una signora, un poliziotto donna, si è seduta dopo che mia madre era uscita dai tafferugli, si è seduta a piangere. Li volete o non li volete, o vi opporrete ancora? Ragazzi, noi la nostra protesta civile e pacifica continua ad andare avanti. Toscani, non si vogliono arrendere, capito? Beh, no, ma posso anche capire che uno reagisca così, insomma, però reagiscono senza prove. Ma perché questi qui dovranno fare delle violenze? Perché? Ma lui dice che non c'è stata nessuna violenza, c'è un'opposizione pacifica, quasi gandhiana. No, ma dico, ma perché questi hanno paura che poi non ci sia più il controllo del territorio? Hanno paura. E basta, quindi è basata su una paura così. E non è giusto avere paura? Non è giusto avere paura? Ma sai, aver paura crea delle situazioni che sono incivili, è tutto qui. Andrea, come rispondi a Toscani? Ripeto, allora, voi siete venuti oggi a conoscerci, Parenzo che vive a Roma, lo so, lo incontro ogni tanto, ci venga a conoscere. Non avete mai seguito una riunione condominiale? Sì. Tutti hanno paura del vicino di casa, è tremendo. Non c'è niente di peggio, non c'è niente più violento di sentire. Cioè, tu dici la paura di un immigrato, la paura di un immigrato. Del vicino, ma non è detto che questi immigrati invece gli portano nuova musica, nuova allegria, anche. Non pensate a nuova musica, Andrea, nuova musica, nuova allegria? Ma lei forse ci sta prendendo in giro, siamo una comunità di 200 persone all'interno della quale sono state inserite queste persone che peraltro non si fanno identificare, non sappiamo chi siano, che evidentemente creeranno Ma perché mi vuole prendere in giro? Perché vivete in una zona degradata. Ma no, non è degradata. Ma cosa cavolo dice? Ma cosa cavolo io. Dice? E allora? Cosa dice una zona degradata? Ma perché deve aver... È un comprensorio privato. Sì. Signore, è un comprensorio privato. Venga. Fermi tutti, vi devo lasciare. Vi devo lasciare. Pubblicità. Ciao Oliviero, ciao. Pubblicità. La Zanzara. Allora, 800240024, Giuseppe, provincia di Frosinone, vai, grande battaglia prima tra toscani e un residente della zona di Roma, della periferia di Roma, dove insomma c'è stata la gazzarra, quella che Parenzo definisce la gazzarra. Beh, sì, non ci sono, gazzarra indegna. Giuseppe, vai. Non ci sono altri termini. Allora, Cruciani, io ti do perfettamente ragione quando parli di questo governo di merda che abbiamo messo, anzi che avete messo voi. No, ma io dicevo governo nel senso di Stato, poi governo di merda, non ho detto governo di merda. Ma dai, prenditi le tue responsabilità. Lo Stato di merda. Prendi le tue responsabilità. Io le prendo. Ma io l'ho presa le mie responsabilità. Io ti ho detto semplicemente una cosa. Quando uno Stato ha deciso una cosa. No, io non mi sto rimangiando niente. Quando il prefetto, uno Stato che rappresenta, che dovrebbe rappresentare l'autorità costituita e che decide di mettere gli immigrati, i profughi da una parte, in una scuola, in questo, nel caso di Roma, in un condominio, in un palazzo, nel caso di Treviso, decide di farlo, deve andare fino in fondo, altrimenti mostra debolezza, non quelli che si fanno le canne, come dice Toscani, ma è lo Stato che è debole, perché se decide di fare una cosa, la deve fare passando sopra 50-100 persone che protestano, possono avere anche ragione le persone che protestano, però uno Stato, se uno Stato va fino in fondo, ragione. E allora? Per il semplice motivo che queste persone incompetenti, anzi sono, scusa, geni tecnici, vabbè, allora? Queste persone che io per me non sono neanche persone, queste che ci comandano. Comunque io ho telefonato per dire una cosa a Parenzo. Sentiamo. Parenzo, c'hai una cartina davanti? Sì, la posso procurare, però sì. No, un tablet, quello che vuoi. Sì, ce l'ho. Guardati l'Africa. Sì, Africa. Guardati, non dico l'Italia, ma l'Europa. Africa. Secondo te queste... L'Europa quante volte entra nell'Africa? L'Europa 20, 30 quante volte? Sì, vabbè, sì. Beh, certo. Sì, allora? Almeno, okay. Almeno. Allora, mi spieghi come facciamo a far entrare tutte queste persone in un contenitore che è 40-50 volte più piccolo? Me lo spieghi? Guarda, no, che nessuno non è che devono entrare vuole tutti, portare l'Africa in Europa, nessuno, no. Neanche gli africani, le migrazioni, però adesso non è qua un convegno, ma le migrazioni sono una roba talmente complessa, vabbè, adesso, che non è che le fermi, ma no, ma per dire, perché questa idea che Zaia, è stato Zaia il primo a dirlo, stanno africanizzando il Veneto, ecco, stanno appunto, africanizzando appunto, usando un'espressione come colorita, ma assolutamente iperbolica, esagerata, chiamatela come vi pare, apposta per creare paura, perché le migrazioni sono uguali a quelle dell'anno scorso. Guarda che il numero di migranti che sono arrivati tra l'anno scorso e quest'anno è pressoché invariato. Non c'è in Italia adesso, per adesso, certo, per adesso. Ma che paura tu, cagasotto in pulma? Chi è quest'altra? Chi è quest'altra? È la mia dolce metà. Non ho capito che sta dicendo la tua fidanzata, che sta dicendo, madame. Non è che stima molto Parenzo. Vabbè, no, passamelo un attimo. Come si chiama? Lucia. Passamelo un secondo. Lucia. Dai, Giuseppe, qua, passami vieni. Lucia, dai. Dagliene qua. Dove siete? Senti, a fora, a casa. A casa? Che è stata a fare? Una sveltina, no? Abbiamo appena finito di cenare, te la passo, Parenzo, preparati. Alle 20:20. Pronto? Lucia, di qualcosa Lucia, a Parenzo. Lucia, eccoci, eccomi. Dico che parla tanto delle nostre paure quando lui si è visto in televisione, quando si trova solo e aggredito da altri, se la fa sotto uguale. Su scherzi a parte, finché si trova in un contesto in protetto, visto che lei cita quel gradazzo. Contesto, quel contesto lì non era protetto e non me la sono fatta addosso per nulla, perché come lei ricorderà, continuava a dire la denuncio. Ma non è questo, lascia perdere le denunce, io dico le reazioni normali e anche umane. Dovevo tirargli un pugno in faccia? Avete dovuto tirare un pugno, lasci stare che era uno scherzo, ragazzi, non lo sapevo. Chi se ne frega, io avrei dovuto tirargli un pugno in faccia, non lo capite. Lucia, io non ho capito. Ma avrei dovuto tirargli un pugno in faccia, non capisco. Ragazzi, basta con questa cosa che non se la ricorda nessuno. Qualsiasi cosa, però non cagarsi sotto. E adesso e viene a dirci a noi che ci insegni a vivere, perché dobbiamo avere coraggio. Guardi, dobbiamo accettare tutti. Guardi, io sono rimasto lì. Guardi che sono rimasto là, non è che me ne sono andato, amica mia. No, sono rimasto là. Ti hanno fatto scendere. Sì, ma non è che sono scappato. Ho fermato il pullman, non l'ho detto, visto che lei rievoca quella cosa. Signora Lucia, non dica stupidaggini. Che stavate facendo stasera insieme a Giuseppe? Ma nulla, cosa vuoi che facevo? Niente, guardavo il telegiornale. Vabbè, perché interessa voi quello che facciamo? Sì, a me interessa. A me interessa. No, perché ti dovrebbe interessare? Beh, interessa. Dimmi tu cosa farai stasera quando tornerai a casa. Ma non lo so, che faccio, vado a cena fuori? Bravo, beato a te che te lo puoi permettere. E invece voi? Ma guarda, perché ti senti aggredita? Noi non ce lo possiamo permettere, dobbiamo continuare a pagare le tasse per consentire a Parenzo di dire che noi possiamo le accettare tasse, tutta l'Africa a casa nostra. Le tasse le pago anch'io e hai non paura ho mai dell'immigrazione, detto dell'Africa a casa nostra. Hai paura dell'immigrazione? No, Hai paura dell'immigrazione? In un piccolo centro... Non c'ho paura dell'immigrazione, dico soltanto che se questi scappassero tutti quanti dalla guerra, verrebbero anche donne e bambini. Com'è? Rimangono solo loro a combattere? No, fanno ma la guerra questo... delle padelle. No, ma che sia un'immigrazione solamente economica non c'è dubbio, in gran parte solo economica. Allora, non c'è se è un'immigrazione economica, non è qui che possono trovare la soluzione. Abbiamo tanti problemi economici noi. A me lo dici, io sono per la soluzione australiana che non si porta, non si fa entrare nessuno quando, vabbè, quando è la ma io sto parlando con te indirettamente, parlo a tutti quelli ma che fanno per l'accoglienza finti. Così per l'umanità perché bisogna accogliere le persone. No, c'è non sono né per l'accoglienza né per l'umanità se non siamo in grado di accogliere gli esseri umani. Per essere chiari, non mi pare che il suo amico Salvini o chi ha governato prima abbia schierato. Ma non so se Salvini o chi le piace, ma non so chi. Amica mia. Non so chi le piace, però non ho visto navi schierate nel Mediterraneo, navi che italiane, c'entra? Che c'entra? Sotto nessun governo. Quindi, siccome questa simpatica signora Lucia pensa che sì. Compagna del signor Giuseppe della provincia di Frosinone, è una coppia straordinaria, che ascoltano la zanzara durante la cena. Si sono trovati. No, abbiamo finito di cenare perché evitiamo che ci vada di traverso qualche cosa. Ecco, bravissimo. Bene, allora. Grazie, Lucia. Grazie, ciao. Prego. Buona digestione. Ciao, buona ciao. Digestione. Dalla provincia di Avellino, vai Claudio, vai. Buonasera, se non ci fosse voi e ci fossero solo musica rock sarebbe meglio. Detto questo, e allora che cazzo, perché quale cazzo di motivo hai chiamato? Scusa, non ho capito. Perché te lo devo dire? Perché tu sei un complice della disinformazione di massa. Ah, benissimo, complice della disinformazione, certo, di massa. Dimmi, certo, dimmi. certo, perché tu sei a Radio 24, sei meglio degli altri, che lo Stato deve 90 miliardi alle aziende e non le paga. Come cazzo, quali sarebbero quei famosi 90 miliardi? Bravo, sei a Radio 24. Come cazzo è che invece paga puntualmente tutti i mesi le cooperative che gestiscono i migranti e il loro posizionamento nelle scuole? Così. Com'è sto fatto? No, ma scusa, ma non ho capito perché te la prendi con me. Perché tu fai parte della disinformazione? Perché ma io non faccio parte di nulla. Perché ti fai vaccinare dall'altro che era... No, il fenomeno sei tu. Fenomeno io non sei faccio tu. Parte di nulla. Il fenomeno capito? Sei tu. Per cui non dire stronzate. Ma come mai riusciamo a pagare puntualmente i 35 euro al giorno alle cooperative? Ma sono partite diverse, però hai ragione. No, di... quale cazzo di partite? Ma perché? No. Quelli che hanno lavorato per lo Stato non prendono i soldi, sono partite. Claudio, sto dicendo, sono due cose, diciamo, diverse. No, non però sono diverse. Però ti sto dicendo che hai ragione. Te lo dico io perché sono diverse. Perché dietro le cooperative ci sono i consiglieri comunali, i consiglieri regionali. No, ma certo, ma non c'è dubbio che l'accoglienza è un business. Perché non pubblichiamo un attimino a chi appartengono, quanto fatturano, di chi sono i bilanci e tutto quanto il resto? Perché è bello. Ma non capito, che cos'è che dobbiamo rendere? No, scusa, ma vai tranquillo, se no non si capisce. A chi appartengono gli statuti? Come si fa? Ma tu hai un'idea vaga di quello che bisogna fare presso le prefetture e le questure per avere una cooperativa sociale o la Onlus che possa ospitare i migranti? Sì, un sacco di... No, ma lo so benissimo. E dunque... Lo sai quanto tempo ci mettiamo noi per sapere questi migranti da dove vengono? Più di 24 no, ma mesi. Claudio, tu e hai ragione. E sai perché? Sì, però lo devi stare tranquillo. Devi no, stare devi tranquillo. No, ti devi svegliare tu invece. Ti devi Senti, svegliare amico tu. Mio, io so benissimo quello che c'è stato dietro, che c'è dietro no, l'accoglienza ai migranti, capito? Stai tranquillo tu. Sei un giornalista, sei giornalista. Quello che c'è. Senti, che c'è amico stato. Mio, non mi devi dire tu come fare il giornalista, chiaro? Chiaro? Perfetto. Chiaro o no? È chiaro allora o no? Non ci devi dire, allora e allora non rompere le scatole, cerca di non fare il professore con me, che tanto no, non c'è trippa per gatto. Con noi. Non tu, c'è, io non faccio nessun professore, non faccio il professore. Certo, stai manzo, stai certo, tranquillo invece di fare il gradasso. State mucca voi, perché sennò poi vi chiudono il rubinetto. Ma che chiudono il rubinetto, che nessuno paga nessuno qua. No. 90 miliardi che sono padri di famiglia, i migranti a 35 euro al giorno, sì. Senti, poi, amico mio, su, forse non hai capito bene che su questa cosa con me, su questa cosa, forse non hai capito a me, su questa cosa con me sfondi una porta aperta. Il fatto che lo Stato non paghi gli imprenditori o le aziende, i crediti che hanno le aziende nei confronti dello Stato dovrebbero essere pagati domani mattina, chiaro? Perfetto. Domani mattina. Nel frattempo paghiamo chiaro i migranti. Lo, allora, ma nel frattempo paghiamo le cooperative, i comuni e le regioni pagano. Stai zitto adesso! Stai zitto! Stai zitto! In ginocchio, Ginevra, in ginocchio, fare 6 mesi di quarantena. Ma stai zitto. Con il contratto in tasca. Dai, su. Allora, hai amico capito, mio, no? Guarda che il business dell'immigrazione, siamo stati tra i primi a dirlo qua, per cui non mi rompere le scatole. E allora perché non inviti ti saluto, qualcuno in trasmissione? Io invito chi mi pare, guadagnano. Invito chi mi pare, chiaro, stai zitto e adesso c'è la pubblicità, muto, pubblicità. Piccolo idiota, davanti a me in ginocchio. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Oh ragazzi, oggi non abbiamo detto nulla su Crocetta, perché poi è venuto fuori che cosa? Che pare che questa intercettazione, l'Espresso dice che è vera, esiste, eccetera. Esiste, ma la procura dice che non è agli atti. Non è agli atti, è segretata. Se c'è, è segretata. No, cioè, e poi, se c'è, è segretata. Adesso Crocetta si può attaccare per mille cose, avrà governato male la Sicilia, non ci interessa. La cosa per cui i media e la politica sta processando Crocetta è per un silenzio. Per un silenzio, per un silenzio. Quasi che il silenzio fosse assenso. Sì. Allora, prima cioè, bisogna ascoltare. È la prima volta. Cosa. In realtà non è una voce intercettata, ma è un silenzio intercettato. Esatto. È una cosa talmente paradossale che ti dimostra quanto poi le cose diventino nel mondo della rete. In questa. Ma lascia perdere il mondo della rete, non c'entra niente. Sì, nella rete, nel sistema dei media, chiamalo come ti pare, in questo bailame dell'informazione. Per cui un non detto diventa un detto. È incredibile. Un silenzio diventa una colpa. Sì, è una cosa incredibile. Il silenzio di Crocetta. Guarda il paradosso. Intercettato il silenzio. Viene intercettato il silenzio e il silenzio intercettato diventa una colpa. Beh, ma insomma, per me Crocetta ha governato male la Sicilia, lo voglio dire subito. Non voglio salvare Crocetta, non salvo il governo Crocetta, non mi sta né simpatico né antipatico, non me ne frega nulla. So che non ha governato bene la Sicilia, almeno così dicono molti siciliani, ma qui non si può mettere in croce o far fuori una persona semplicemente per un silenzio. A questo punto, siccome la questione sta diventando politica, io credo che la procura dovrebbe cercare tra quelle segretate, dire una parola chiara, perché l'Espresso dice una cosa, questi ne dicono un'altra, qualcuno avrà ragione, no? Non c'è stato un magistrato che fino adesso di Palermo che ha detto sì, questa intercettazione esiste. Allora la tirassero fuori. Loro non hanno negato l'esistenza, perché i colleghi dell'Espresso adesso sicuramente. No, ma lo hanno, sicuramente c'è. Sicuramente c'è. Beh, perché non è che se la sono inventata, no? No, il direttore dell'Espresso ha detto che l'ha sentita in un'intervista alla stampa oggi. Ma lascia stare questo. Sicuramente quella roba lì c'è, perché non è che un giornalista se la inventa. Capito, la tirassero fuori così sentiamo sto silenzio, se è un silenzio vero, se è un silenzio finto, se questo qua semplicemente non ha detto nulla e ha abbassato il telefono, se è vero che era in una galleria e non si sentiva niente. È una cosa totalmente indimostrabile. Cioè, anche se qualora venisse fuori, tu sentirai comunque il silenzio. Quindi è una cosa totalmente indimostrabile. Franco D'Arieti, vai. Buonasera. Vai, pronto? Dimmi. Senta, io consiglio al dottor Parenzo di farti una bella curetta, anche perché non c'è una curetta, perché il comunismo non è un'ideologia ma è una malattia mentale. Lui è un malato mentale. Non sono comunque comunista. Comunque, una riflessione e una considerazione. Non sono comunista. No, aspetta, fermo lì. Che cos'è il comunismo? Non ho capito bene. Non è un'ideologia, è una malattia mentale. Ma perché? Perché Parenzo, tu dici è comunista. Ma perché lui vuole fare l'antifascista, anche citando cosa avrebbe fatto lui, non avrebbe fatto lui. Faceva l'anima sua, è morto, ma quello che ha fatto in Africa l'ha fatto Mussolini. Strade, scuole, chiese, a misurarlo, ha fatto un giardino. Ormai è tempo passato, basta con antifascismo. Ma mi pare che i fascisti ci siano, li abbiamo raccontati all'inizio della trasmissione. Mi pare che esistano oggi i fascisti, quelli che hanno preso d'assalto un pullman con dentro 19 persone. Quei fascisti questi fascisti che hanno, come lei dice, assaltato. Non avevano il volto coperto. No, avevano il casco nella testa, però sulla testa, avevano il casco in testa. A differenza dei suoi amici no global. No, amici no global. Amico mio. Non voglio dialogare con lei, soltanto volevo fare una reciproco. Vabbè, allora? Va bene, la riflessione è che questi signori stavano a volto scoperto, ben identificabili e non come i centri sociali e roba varia. Va bene, Franco, dove vuoi andare? Dimmi. Ecco, voglio andare che io in piazza, quando esco a Rieti, vedo questi giovanotti belli, lucidati, tirati al lucido, con i tablet e telefonini non fanno niente dalla mattina alla sera. Allora io mi chiedo, perché gli americani che hanno portato le primavere arabe insieme ai francesi e agli inglesi non se li portano a casa loro? Perché quando c'era Gheddafi non c'era tutto questo schifo che c'è adesso. Beh, si stava meglio quando si stava peggio, non c'è dubbio, quando c'era lui. No, guardi, senta, Lucia, io la considero una persona intelligente. No, ma lui, chiaro? Gheddafi diceva, lui, che quando c'era lui si stava meglio, si stava quando, meglio. No, quando c'era Gheddafi i signori avevano un reddito pro capite di $12,000 a persona, è vero che le cose a livello dei diritti umani che venivano riprovate a Gheddafi non è che siano migliorate di molto, ma quelli sono popoli fatti così. Se non c'è l'uomo forte che li tiene fermi, quelli si scannano fra di loro perché sono tribù. Questi combattono la mattina e la sera, non conoscono cos'è la democrazia, la pace, la distensione. Sono popoli fatti in quel modo e devono vivere, che devono essere modo. Governati con la forza, col pugno duro, devono essere ma vedi in Iraq, ci hanno bombardato armi chimiche, Saddam Hussein, armi chimiche, quella benettanima di Ali, il chimico, era dipinto come chissà che cosa, dopo non hanno trovato niente, adesso l'Iraq è guerra di battaglia, si scannano fra di loro, non c'è più pace. Allora smettiamola con questo buonismo, non dobbiamo interferire negli affari interni delle altre nazioni, ogni popolo va governato secondo come è fatto. Va bene, Franco, allora, capito, Edoardo da Milano, Edoardo, vai. Ciao. Dimmi. Volevo intervenire su un concetto di fondo. Volevo chiedere a Parenzo, perché razzisti? Un razzista è una persona, a mio avviso, che reputa una razza superiore rispetto ad un'altra. E qui stiamo completamente sbagliando Mi sembra che l'abbia detto bene Di Stefano, il signore di Casa Pound, che ha sentito all'inizio della trasmissione, lo ha teorizzato, basta immigrati, prima i nostri, gli italiani. E questa che cos'è se non la difesa della cosiddetta... Ma non è un concetto di razzismo, scusa. Cos'è? Come lo chiamiamo? È un concetto sociale, può essere una stupidaggine, ma non è razzismo. Ma per te magari è una stupidaggine, per altri no, è un concetto sociale. È un concetto economico, non è un concetto di razza. Dicevano la stessa cosa negli anni 20, ma non importa, insomma, mi interessa oggi a me. Economico. Ma mi interessa l'oggi, non gli anni 20. Una comunità economica che non si può permettere economicamente, come mercato, l'introduzione di nuove persone che non apportano reddito. Ho capito, Edoardo, ho capito benissimo. Ciao. Conclusione di puntata, caro Parenzo, con un signore che oltre al parlamentare europeo fa anche il sindaco e che ha invitato, pagandolo €40.000, il signor J-Ax che sputa sulla Lega. Gianluca Buonanno, buonasera. Buonasera a voi, ciao. Ma insomma, Parenzo, ha fatto bene o ha fatto male? Se le ha pagate di tasca sua, ha fatto bene. Ma come di tasca sua? Il comune ha pagato. A finanziare finalmente chi parla. Non è proprio il comune. Chi è? È un'associazione che è collegata con il comune. Con il comune che ha pagato €40.000 un signore che sputa sulla Lega. Beh, un'iniziativa meritoria. Perché si dice ha dato soldi a qualcuno che sputa, sì, sulla Lega. Beh, questo è meritorio, questo mi pare anche. Da, questo è ma che vi siete roba giusta che vi siete detto? Volevo dire subito questo. Quando io non sono come i comunisti, come. Sì, quanti anni hai, buon anno, anche tu? Le vicine lì. Quanti no, anni hai? Che, scusami. Se sono comunisti li chiamano, sì. Se non sono comunisti quanti non li anni, chiamano. Ma non mi interessa. Io sono niente. Molto più libero, hai capito? Non sono quanti com'è? Anni hai tu, buon anno? Socio. Gianluca Bonanno, però hai ragione, onorevole, adesso ci ritorniamo. Quanti 49. Anni hai, Bonanno? I comunisti quanti? Sono settari, 49. 49 anni, ecco, i in 49 anni settari, hai fatto una cosa meritoria, settario. Quella di pagare uno che sputa sulla Lega, no. Questo mi sembra da ricordare che hai fatto una cosa giusta. Tutti vedi, vedi tutti una, fanno. Aspetta, aspetta. Non esiste. Una manifestazione l'Alpa che è famosissima, lo faccio da 7 anni, ho invitato... Sì, ma vedi, Venditti, ho invitato. Io non credo che esista il male assoluto. Hai fatto una cosa, anche tu hai dimostrato di aver fatto una cosa giusta, cioè hai dato 40.000 euro a un signore che sputa sulla Lega. Non posso che dirti che hai fatto bene. Io questa volta ma io guardo l'aspetto sono fisico, obiettivo. Non è che faccio la ma che vi siete detti sul palco? Non ho capito, col signor J-Ax. Ma secondo me l'arte intanto non ha colore. L'arte non ha colore. Uno, secondo, io sul palco sono salito prima di J-Ax e ho detto. Ho fatto due sì. Parole al pubblico che hai già la donna baffuta hai fatto il quindi centro poi di quindi poi dopo è entrato J-Ax certo. E poi lui ha fatto però scusami concerto. Secondo ma me J-Ax tu l'hai conosciuto tre anni fa secondo me tu l'hai invitato perché ha parlato male di Salvini diciamo la verità no ma figurati no assolutamente no io faccio un discorso ripeto non da comunista per cui si scelgono i cantanti in questo caso che è gratuito tutti 40.000 concerti, euro di soldi pubblici anziché darli gratuito ai tuoi, ai tuoi cittadini non sono soldi pubblici l'hai dati a questo signore li raccogliamo dagli sponsor, dagli sponsor e da tutta un'organizzazione dopodiché io a differenza tua chiamo anche quelli che non la pensano come me ma io sono insomma che ti ha detto sul palco questo voglio capire in segreto che ti ha detto il signor J-Ax. No, J-Ax quando l'ho visto il concerto mi ha detto guarda, che se apre un coffee shop io vengo da te in pompa magna. Cioè vuole aprire un coffee shop a... No, lui mi ha detto che se io da sindaco apro un coffee shop lui ma tu lo apriresti un coffee shop? Sei a favore della legalizzazione della droga o no? Guarda, non è neanche la questione della droga però sinceramente che le priorità siano ben altre. Dopodiché, quello al solito, eccetera. Vabbè, sei a favore certo, o no? Ci sono 240 parlamentari a favore. Tu che sei da una parte o dall'altra? No, guarda, il coffee shop non è nei miei pensieri, assolutamente no. Però devo dire, la cosa di Febal a me ha dato fastidio. Cioè una trans che si permette di fare dire, di sfruttare per i cavoli suoi i simboli della Lega... è un errore madornale da parte di questo uomo donna. Uomo donna, trans si chiama, transessuale. Transessuale, transessuale cioè, è un mix tra una donna. Sì. Cioè, ma che sono i transessuali per te, scusa? Per me sono degli esseri strani. Essere come fossero dei marziani. Sì. Non è che, ma non è che tu sei un essere normale, però. Cioè, detto da lui, è il bue che dà del cornuto all'asino. No, non è che lui, capisci? Se lui è la normalità, c'è da preoccuparsi. Per fortuna ma non è così. Scusa, io dico la verità. Uno che è uomo, ma fa la donna, qualche problema c'è. Ma che senso sarà in crisi di esperienza perché gli hanno chiuso il circo a Bruxelles no? Perché si vanno in vacanza no, non quindi... ho capito bene scusa Gianluca cioè per te uno come scusa una cosa però c'era un partito se non ricordo male del PD che aveva un presidente di regione si chiama Marrazzo che andava a farsi fare le cose ancora dai trans con la scorta però lì il PD andava bene come il PD gli va bene si è processa dimesso, così il PD gli va bene tutto si è, però no, tu sei parente sei un di sinistra sei un comunista si è dimesso, e gli va bene tutta sta si roba si è dimesso per non, sì? Pur non avendo commesso alcun reato si è dimesso ma va a dormire Parenzo non ha commesso alcun reato con la scorta no allora io voglio dire una cosa i trans tu di fronte a non perché l'hanno beccato intanto andava a farsi inchiappettare andava a farsi incappettare che uomo che andava uomo, a farsi incappettare e mentre la scorta stava ad aspettare fa anche rima va a farsi incappettare con la scorta che stava uomo, ad aspettare che uomo basso anche e anche te Parenzo e farsi incappettare mentre la scorta ti sei sta aspettando sei proprio lo, non ho la scorta e ho ma altri scusa altri i trans per te oltre a essere dei marziani però non ti attraggono proprio quello sì che era sperpero di denaro pubblico no? Non sei attratto dai trans come tanti uomini sono attratti dai trans da questi uomini no ma da queste donne col pisello in pratica no, non sei attratto io una volta a F-Bar gli ho detto di farci un nodo al pisello perché ha detto in una trasmissione che sognava di fare un figlio, ha detto fatti un nodo al pisello che non fare mai una roba del genere. Ma questi cioè, sono esseri strani, cioè sono veramente particolari. Uno scontro tra cioè sono contro natura, dici? Vabbè, non mi sembra che sia una cosa normale, no? E dunque sono contro natura, cioè sono cioè che ma perché sono un controsenso? Un controsenso, che ne so, un contro sì, sono l'insieme di due cose completamente differenti. Ma scusa, non natura fa maschio e femmina, non è che fa non è cioè, che tu fa dici il che maschio con la femmina. Insieme. Tu dici che si dovrebbe legare il pisello per non fare un figlio? A me ci mancherebbe. Anzi, e che ne so, magari Lussuria farà un figlio, che ne sai, oppure adotta un figlio adottato vabbè, da Vladimir. Secondo me quello che nasce è già rovinato appena nato. Cioè, lascio perdere che fa il figlio ma non lo fa. Ma l'immagine di Lussuria che culla un bambino, che immagine è? Di Vladimir Lussuria con un bambino che fa ninna, nanna, ninna, oh, che immagine Che penso che quel bambino abbia solo gli incubi, non sogna. Ma come si fa? Ninna nanna si spaventa appena nato. Avere uno vede il mondo al contrario, dice cacchio, ma cosa vedo qua? Non capisco più. Pensa a te avere uno come buon anno invece che chissà che ma no, bene. Ma scusa, posso dire quello che penso? Cioè, tu, Parenzo, dici quello che pensi, sei comunista, e tuo padre avreste portato solo gente comunista. Io, ad esempio, porterei Guccini all'Alpa. Io non sono Guccini, mai stato comunista. Vabbè, ragazzi, devo chiudere. Io voglio... Paoli lo porterei perché gli chiederei dove ha messo i soldi in Svizzera, che vorremmo proprio sapere, no? Perché poi parliamo della sinistra. Ma Gino Paoli, che era il presidente della SIAE, i soldi in Svizzera, poi ci faceva la morale. Ma questo qua si deve vergognare. Quello sì che è da prendere. Volevo anche dire che comunque Gino Paolo è venuto a farallo. Però non pure era lui, ancora. Pure lui, pure gli evasori, sì, sì. Forse presunti. Presunto, anche Gino Paolo è venuto da noi a fare il. In questo vabbè. Caso era la segna teatrale. Ha fatto un vabbè, concerto. Comunque riprendiamo su Vladimir un'altra volta. Forse inauguro i venerdì buonanniani. Dopo oltre quelli due... di lunedì. Forse i venerdì di buon anno. Mamma mia, c'è veramente da ciao, ragazzi, ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao. Ciao, vi bacio a tutte e due, andate a fare in culo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. E allora niente, allora vai a farti fottere. Radio 24. La passione si sente.